Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. È sicuramente un macello quello che stiamo vivendo al di fuori degli uffici, per strada. Il coronavirus ormai ha cambiato il nostro modo di vivere, non si torna più indietro. Ha cambiato anche il nostro modo di lavorare. Lorenzo Maternini, fondatore di Talent Garden insieme a Davide Dattoli. Ciao Lorenzo. Ciao, ciao a tutti. Allora, sta cambiando veramente il nostro modo di vivere, il nostro modo di lavorare. Smart working è diventato non più un desiderio, ma un obbligo. Tutti quanti che lavoriamo da casa. Io personalmente ho visto una quantità di incontri cancellati con aziende, clienti, tantissimi. Non so voi cosa state vivendo. Sì, noi abbiamo vissuto la prima settimana che sembrava, insomma, un film di fantascienza, no? Strade deserte, persone che non capivano esattamente come lavorare, perché vado in ufficio, non vado in ufficio, ma che cosa faccio? Smart working, remote working, a un certo punto non ci si capiva più niente. È stato molto bello perché è stato un primo test, no? E quei test in cui però non c'era la preparazione prima, quindi si vedeva proprio la reazione delle persone. E di fondo era un cambiare le proprie abitudini. Ecco, cambiamo le nostre abitudini. Proviamo a fare però un attimino di chiarezza nelle varie differenze tra smart working, remote working, telelavoro. Partiamo da quest'ultimo. Telelavoro è imputare dati, fondamentalmente spostare una funzione al di fuori dell'azienda e demandarla in outsourcing, ok? Remote working è prendo il lavoro che facevo in ufficio e me lo porto a casa, ma con l'organizzazione e le tempistiche dell'ufficio. Smart working è riorganizzo la mia vita, i miei tempi, le mie attività e sono orientato agli obiettivi, senza dire è meglio o è peggio l'uno o l'altro. Peraltro la maggior parte delle persone oggi è obbligata a farlo a casa. Ma che cosa significa fare oggi smart working per chi lavora in Talent Garden, per chi lavora a casa? Come sta cambiando il modo di lavorare? Ma in realtà, vedete, si focalizza sempre dove si lavora, no? Cioè lavorare da casa. A me è venuta, mentre stavi raccontando, è venuta questa immagine, non so, di Homer Simpson quando a un certo punto fa telelavoro, no? Che cerca di automatizzare talmente tanto il processo che mette un picchio che schiaccia il pulsante, no? Perché poi il problema è l'alienazione delle persone, sì. No? Cioè in tutti questi fenomeni il vero problema è poi, ma le persone riescono poi a mantenersi vivi, cioè lavorare, che è il massimo appunto per la realizzazione di una tra le cose, insomma, nella vita che realizzano una persona. Quanto diventa alienante se fatto a casa, confinato? Ecco che in realtà lo smart working, almeno come noi l'abbiamo sempre inteso, non è esattamente alienare e distaccare la persona, ma è soprattutto connettere la persona ad altri esseri umani che in quel momento ne condividono passioni, condividono lo stesso lavoro. Il co-working nasce da quello, dalla massima empatia, dalla massima condivisione. E dalla massima libertà. E dalla massima libertà e quindi è dalla massima autogestione del proprio tempo. Vuol dire lavorare per obiettivi, non lavorare perché timbro un cartellino. È un modo diverso di porsi sul lavoro. Allora, aiutiamo i nostri ascoltatori però a provare ad affrontare questo cambiamento, perché la maggior parte di quelli che ci ascoltano fino a ieri non facevano smart working o remote working. Da che cosa bisogna incominciare per organizzarsi bene giornata e attività e quindi lavoro? Obiettivi ed anche micro obiettivi. È fondamentale nell'arco di una giornata dire quali sono le cose che io voglio raggiungere, come posso arrivare a raggiungere queste cose. Noi da tempo, per esempio, che utilizziamo un sistema di misura del nostro, appunto, performance, che si chiama OKR, è un sistema di Google, non entro nel dettaglio, ma proprio che misurano i piccoli obiettivi e come si raggiungono questi piccoli obiettivi. Questo è fondamentale, perché posso andare a far palestra a metà del pomeriggio, perché posso fare una corsa, ma poi l'obiettivo della giornata deve essere centrato indipendentemente dall'ora. Ecco, questo vuol dire che non devo stare a degli orari, ma devo stare piuttosto a dei compiti che io mi autodò, quindi mi autoregolo in qualche modo. È difficile però riuscire ad autoregolarsi se fino a ieri eri all'interno di un sistema che ti diceva 8:39 ingresso, 17:30, 18 uscita, questi sono i compiti, 13:14 pausa. È molto difficile, questo secondo me i manager devono molto aiutare i propri dipendenti, perché questo distacco ovviamente non può essere fatto in autonomia, ma bisogna che appunto le persone si aiutino, collaborino l'un l'altro, e soprattutto i manager diano chiari quali sono le nuove linee guida. Ecco, devo dire, è difficile abituarsi inizialmente, ma allo stesso tempo è anche estremamente motivante per una persona dire io posso davvero gestirmi il mio tempo. Insomma, si esce da quella costrizione lavorativa tanto agognata e si entra davvero nella valorizzazione del proprio lavoro. Secondo la ricerca di Buffer, State of Remote Work 2019, quindi a che punto siamo sul lavoro remoto, ed è stata appunto pubblicata nel 2019, Uno degli ostacoli principali di chi lavora da casa è il fatto di non riuscire mai a staccare, no? Che riprende un pochino quello che dicevi tu, darsi degli obiettivi, quindi darsi dei compiti. Non rischia di diventare un po' troppo alienante? Non vedo più i miei colleghi, rimango a casa, ho dei compiti, mi crea quasi ansia o no? Sì, io credo che questo sia molto vero, tanto che io spingo sempre, noi come Talent Guard abbiamo spinto sempre fin dall'inizio nei luoghi di aggregazione in realtà, cioè quindi smart working non deve essere in contrapposizione col vedersi o con l'aggregazione, smart working è lavorare in modo diverso, non è essere isolati, quello che dicevamo prima, e io sono molto d'accordo su questo, è fondamentale il connettersi, il parlarsi, perché l'empatia umana è ancora il grande valore di oggi del lavoro. E come fa a organizzarsi però una mamma o un papà che ha magari dei figli piccoli a casa, distrazioni, insomma, i figli che corrono, peraltro adesso che non vanno neanche a scuola, per cui ci ritroviamo tutti quanti meravigliosamente a casa, il primo giorno è fantastico, il secondo è bello, il terzo è simpatico, il quarto incomincia a essere faticoso. Il vero grande problema secondo me sarà proprio, e qui abbiamo visto anche un po' quello che è un deficit anche del nostro sistema, l'aiuto alle famiglie. Questo è stato un... Allora, chi è i nonni è un fortunato, chi non ai nonni con gli asili chiusi diventa un grosso problema. C'è stato un incremento delle babysitter e quindi spese che gravano sulle famiglie. Questo è un vero grande problema, è molto difficile gestirsi e poter regolare quando si ha da badare, e la priorità ovviamente è la famiglia, sono i propri figli. Peraltro ha voglia a parlare di digitalizzazione della scuola, non ci sono praticamente scuole pronte a fare lezioni a distanza o sono pochissime. Io ho visto alcuni bimbi che hanno ricevuto un bel WhatsApp sul gruppo delle mamme, studia da pagina X a pagina Y, questo era remote working. Sì, per una scuola che sta provando l'online ce ne sono 100.000 che in realtà non hanno neanche la possibilità di cominciare a provare l'online. La verità è che qui queste crisi, chiamiamole crisi in realtà, mettono veramente alla prova un sistema che non è semplicemente la prova economico, cioè un problema economico, ma mettono alla prova proprio un sistema sociale. Il nostro welfare secondo me in questo caso fa vedere come basta isolarsi, basta bloccare un attimo 2 settimane le scuole e c'è la paralisi totale. Totale, perché totale. Non eravamo assolutamente pronti. Peraltro mi viene da dire, le aziende oggi non sono neanche tenute o spinte o quantomeno incentivate a pagare quei costi che le persone sostengono a casa per fare remote working. Banalmente non pagano la connessione internet, non pagano spazi di co-working dove magari incontrarsi una volta alla settimana per poter fare la riunione o quantomeno anche per prendersi semplicemente un caffè, no? Sì, devo dire che alcune aziende in realtà stanno provando e noi lo vediamo che molte aziende hanno dislocato dei propri laboratori all'interno degli spazi di Talent Garden anche per permettere proprio alle persone di lavorare in un modo diverso, con un mindset diverso. La verità è che non è ancora regolamentato il processo, cioè noi abbiamo esempi di grandi aziende che avevano il problema di come rendere il loro badge compatibile col nostro badge per poter timbrare il cartellino e il monte ore. Cioè quindi c'è un grosso problema ancora proprio oggi di come si affronta questo tema. Le aziende vogliono, le risorse umane vogliono provare ovviamente, azzardare, ma lo fanno proprio per una valorizzazione del dipendente, l'individuo, ma non c'è un sistema ancora pronto, una regolamentazione pronta per incentivare davvero lo smart working. E non c'è allora il rischio che dopo queste 2, 3, 4, 5 settimane le persone al contrario non vedono l'ora di tornare in ufficio e di non fare più smart working perché è troppo stressante e pesante? È un po' come, mi sembra un po' come, ragazzi, camminare, correre fa bene, ok, la prima cosa che facciamo è la 15 chilometri da zero, allora io ti passa un po' la voglia. Capisco, però in realtà la leggo in questo modo, se saranno 2 settimane ormai, quindi se il blocco, 1 settimana, 2 settimane, sono d'accordo con quello che dici tu, cioè in realtà sarà vista più come 1 settimana di pausa. Immaginiamoci però se questa cosa, magari non sarà questa volta, sarà una prossima, durasse 3 mesi, 4 mesi. Si è costretti a quel punto lì a non interpretarla come una pausa, ma interpretarla come un cambio di abitudine. Ecco, allora, come in ogni ovviamente negatività c'è del positivo, allora lì davvero forse non ci sarà questa corsa torniamo come eravamo prima, ma ci sarà invece una corsa a dire, beh, in fondo autoregolarsi, in fondo darsi degli obiettivi mi aiutava molto a semplificare il mio lavoro. Ecco, il lasso di tempo di questa, tra virgolette, stop da coronavirus, secondo me farà la differenza. Peraltro, rilacciandomi a quello che dicevi tu, cioè cercare il positivo in questa situazione drammatica a tutti gli effetti da un punto di vista quantomeno della salute pubblica e dell'economia, abbiamo visto ieri sul Corriere della Sera, ma non solo, le immagini della NASA che facevano vedere la drammatica diminuzione di inquinamento in Cina, perché il numero di persone che si muovono è drammaticamente diminuito, le imprese producono meno, ma forse ci sono anche dei risvolti proprio non così negativi. Tutte le crisi, non lo dico io, non lo diciamo noi per la prima volta, tutte le crisi in realtà hanno una grandissima forza propulsiva e una grandissima forza positiva. Questo sa Vassandir, nessuno poi si augura di dover incorrere in una crisi per capire come cambiare, però l'essere umano ha sempre dimostrato che davvero i grandi cambiamenti, la grande crescita economica sana è avvenuta nel dopoguerra. Non è un caso, assolutamente un caso, era necessaria una guerra per far capire all'uomo la nostra Silicon Valley. La nostra Silicon Valley. Oggi dovremmo ricreare una Silicon Valley, questo è il grande tema che ci poniamo sempre, speriamo di non doverlo fare con un'altra guerra. Senti Lorenzo, cosa significa dal tuo punto di vista lavorare a casa o lavorare in uno spazio di coworking? Quali sono le differenze e i pro e i contro dell'uno e dell'altro? Quando progettiamo un talent garden, la prima cosa che mettiamo al centro e che progettiamo è l'area caffè. Perché l'area caffè è il punto in cui non si parla di lavoro, ma si parla di persone. Starbucks insegna, ovviamente, e si parla quindi anche di lavoro. Perché mentre io mi confronto con te, facciamo questa piacevole chiacchierata, noi stiamo parlando delle nostre passioni. Queste passioni sono parte costituente del nostro lavoro. E soprattutto se noi facciamo lavori simili, e questa è la prerogativa di Talent Garden, quindi di far lavorare tutte persone che hanno a che fare col digitale, ecco che le nostre passioni, il nostro lavoro diventeranno un punto di contatto. Questa è la grande differenza. E facevo un bel esempio su un giornale De Masi l'altro giorno, quando raccontava di Sartre, come in realtà tutto quello che ha concepito è avvenuto all'interno di un caffè. Questo perché? Perché aveva bisogno di vedere le persone, di confrontarsi con le persone. Tutti noi, quando veniamo stimolati da altre persone, abbiamo delle idee, queste idee le applichiamo nel nostro lavoro e le rendiamo concrete. Io non credo assolutamente che sia possibile lavorare da soli, isolati, penso proprio che sia un impoverimento, penso che invece lo smart working, remote working, anche il telelavoro, in realtà possono essere occasioni per aumentare i punti di contatto, in posti diversi, per poter viaggiare, per poter essere altrove, per conoscere più persone, non per conoscerne meno. Ma dal tuo punto di vista ancora, quanto le persone sono pronte a questo tipo di switch? E sto parlando non dei millennials, non sto parlando della Z, della generazione Z, sto parlando, come dire, dei 35 something, quindi 35 over. Ma in realtà, sai, io credo che non sia mai pronti a un cambiamento. Penso che il cambiamento a volte sia obbligatorio, e forse questo sarà un caso, a volte invece è stimolato, indotto. Pensare che ci sia essere pronti a un cambiamento forse è un'utopia, non credo sia mai successo nessun grande cambiamento nella storia in cui le persone si sentivano pronte. L'hanno visto e l'hanno di conseguenza affrontato. Noi dobbiamo aiutare le persone a imparare a cambiare, questo è il trucco, credo. E le imprese quanto sono pronte a vedere i propri dipendenti dislocati a casa, quindi a non vederli più? E io credo sia quello il vero problema. Penso che sia molto più importante, sia molto più difficile per le imprese la gestione dei dipendenti piuttosto che per il dipendente abituarsi a lavorare altrove, perché bisogna proprio cambiare il modo di parametrare, il modo di ovviamente di fare overlook rispetto al lavoro, cioè di guardare i lavori, di gestire il personale, cioè cambiano completamente le regole interne. Allora, cambiando le regole interne, bisogna capire ovviamente quando le aziende saranno davvero pronte a cambiare dall'interno il proprio sistema. Ecco, questo penso che sia il grande problema, perché l'abitudine del dipendente in realtà la vedo anche come una cosa che ha facilmente degli stimoli molto positivi. Il cambiare le regole interne invece è molto complesso. È ancora un problema di mindset, quindi, Lorenzo, cioè il fatto che le aziende, gli imprenditori non sono preparati a vedere la loro azienda sempre più virtualizzata, sempre più liquida e non avere il controllo diretto sulle loro risorse. Esattamente questo. Un'azienda liquida significa un'azienda imprevedibile che deve lavorare anche qui per traguardi, in cui io non controllo esattamente giorno per giorno cosa deve fare una mia persona, ma io la stimolo a raggiungere un obiettivo. È un modo completamente diverso di porsi nei confronti dell'azienda e dei dipendenti. Lorenzo, un'ultima domanda per te, prima di chiudere. Talent Garden sta pensando di dare il proprio contributo per cercare di fare ripartire il motore. Ci puoi raccontare cosa avete a piano per la piccola impresa? Sì, noi siamo partiti subito quando abbiamo capito gli effetti di questo coronavirus, al di là della salute delle persone, anche gli effetti sull'economia, su tutti i business. Abbiamo detto dobbiamo metterci in campo anche noi. Abbiamo tenuto aperti i coworking, prima cosa, perché era un segnale importantissimo per dire no, ci sono gli spazi, abbiamo aumentato ovviamente il servizio di pulizia, abbiamo seguito tutte le norme igieniche, ma il lavoro deve continuare. Questa è stata la prima grande cosa. La seconda, ovviamente, abbiamo cominciato a capire come la nostra parte di formazione potesse essere usufruita da tutte le persone che in quel momento si trovavano costrette a casa e quindi non potevano accedere alle nostre classi. Allora gratuitamente siamo partiremo con le prossime settimane, per 5 settimane, con dei live di formazione sul digital marketing per il mondo della PMI, soprattutto gratuitamente accessibili via diretta Facebook, eccetera. E l'altra cosa, ovviamente, su tutti i nostri corsi che hanno questa forte valenza fisica, in realtà sono già parte stati trasformati online, e in futuro, se questa crisi dovesse continuare, noi siamo pronti con davvero poter continuare a dare il servizio mantenendo ovviamente l'online e non più il piano fisico. Era Lorenzo Maternini, cofondatore e partner di Talent Garden, ai microfoni di Radio Next. Grazie mille, Lorenzo. Grazie mille a voi. E ancora grazie ai nostri ascoltatori che ci ascoltano prevalentemente da casa, magari qualcuno anche al lavoro la domenica, per essere stati con noi durante questa puntata. Ringraziamo Carmelo Lauricella dall'altra parte del vetro per averci permesso di fare questa puntata. Noi ci vediamo con il podcast esteso il lunedì, oppure con una nuova puntata di Radio Next la prossima domenica alle 13:45. Un saluto da Pepe Modena.